1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Dai, eccoci, dai, lo schema Allegri è sempre più vivo alle 7:18 minuti e ormai si è aperta, a Milano quasi piove, è una grande novità, si è aperta la 64esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Avete sentito il premier Renzi dire che è una settimana decisiva. E va bene, allora noi dopo la lettura dei giornali ci concentreremo su cosa? Beh, ma sicuramente anche su quello che succede al Senato. Avremo ospite Loredana De Petris, che non so quanti emendamenti ha presentato per bloccare la riforma del Senato. Parleremo della situazione internazionale dopo l'abbattimento, è sempre più chiaro, ma nessuno lo nega, abbattimento, e nessuno nega o pochi negano che siano stati i filorussi ad abbattere l'aereo della Malaysia Airlines tra Ucraina e Russia, appunto. Questo, ci concentreremo su questo alle 9:05. Parleremo anche un po' di costi della Camera, perché tra oggi o domani verranno annunciate importanti novità per quel che riguarda il tentativo di contenere i costi della Camera. Insomma, di questi temi parleremo dalle 8:15, andremo avanti fino alle 9:30, ancora per questa settimana, poi io me ne vado in fede. Intanto andiamo a leggere i giornali, Piaccia o no, è così, è inutile che ridi, Carmelo, me ne vado in fede. C'è qualcosa che non va? Qualcosa in contrario? Ah, benissimo. Allora, intanto lunedì 21 luglio i titoli, il Sole 24 Ore apre così con un articolo, una notizia che vedremo subito in apertura. Milano, capitale delle multe. Cari guidatori, ascoltatori che state per mettervi in macchina oppure lo siete già, sapete che Milano è la capitale delle multe. Poi il Corriere della Sera, la battaglia dei 100 morti, strage a Gaza, uccisi 87 palestinesi e 13 militari israeliani. Per Repubblica, Gaza al giorno dei 100 morti, Obama, Israele, fermatevi. La Stampa, a Gaza un giorno d'inferno. Mentre per il Messaggero, Berlusconi, l'economia così non va, darò battaglia. Berlusconi che torna a farsi sentire dopo la soluzione. L'Unità invece, Gaza muore, salviamo Gaza. Questo è il titolo di prima pagina, ma poi la vedremo l'attualità internazionale. Intanto voglio partire proprio dalla classifica del Sole 24 Ore. Gli automobilisti nel labirinto delle multe. Nel consuntivo degli incassi 2013, racconta Gianni Trovati a pagina 3, Milano è in testa con 170 euro per patentato. Verrebbe proprio da dire: tenete le mani strettissime sul volante, Milano, capitale delle multe. E anche unico caso tra le grandi città in cui non si avverte la moria delle riscossioni che nei primi mesi del 2014 è stata registrata in quasi tutta Italia, complice lo stop quasi semestrale alla riscossione imposto dalla sanatoria delle vecchie cartelle. Firenze, che un tempo svettava nelle graduatorie sugli incassi, oggi è solo seconda, seguita da Bologna e Parma, dove invece il business della polizia locale è in crescita. Roma e Napoli arrivano dietro. Eccola qui la classifica. A Milano, come detto, 170,50 euro per patentato. Le multe in media in un anno. Firenze si ferma a 145 euro, Bologna 143, Parma 141, Treviso a 125, poi Rovigo, Pavia, Pisa, Torino, Venezia. Questi sono i primi 10 posti. Mentre in coda, poi dicono che l'Italia è una, è unica, è indivisibile, è unita e uniforme. A Caserta, 60 centesimi l'anno di multe per patentato, 60 centesimi, a Milano 170 euro, a Caserta tutti precisi, perfetti, ligi, si fermano ai semafori rossi, mettono il casco in moto, non parcheggiano mai in divieto di sosta, non fanno mai un'infrazione, 60 centesimi, a Isernia 3 euro, 3 euro per patentato l'anno, a Taranto 3,1 euro, a Nuoro 6,3, a Crotone 11,9, a Fermo 13,7, a Enna 14 euro. Sto scalando la classifica dal basso, no? Sto salendo. Queste sono le ultime posizioni. Beh, fortunati. Fortunato chi vive a Caserta. 60 centesimi l'anno, track. Magari ce n'è uno che ne paga 1,20 euro e l'altro ne paga 0. E così la media è 60 centesimi. Evviva! Bisognerebbe andare a prendere, a circolare, a vivere a Milano, ma a circolare per le strade di Caserta. È molto semplice. Intanto, comunque, la classifica la trovate su Sole 24 Ore. Tu, Carmelo, vuoi sapere una qualche città che ti interessa come classifica? Tu sei di Milano, eccetera. Poi, se ti interessa qualche città, ti compri Sole 24 Ore e te la studi. E così andiamo avanti. Allora, intanto, se avete tenuto le mani ben strette sul volante per questa notizia, continuate a tenerlo. Continuate a tenerle, perché il Corriere della Sera, per la verità, l'inserto dell'economia con Sergio Rizzo racconta un qualcosa che si intreccia anche con l'appello che oggi il CDR dell'Unità, il comitato di redazione, mette in prima pagina, per la verità, da vari giorni ai lettori. Oggi si apre la settimana cruciale per l'Unità, la settimana della chiarezza. Scrive il comitato di redazione, la rappresentanza sindacale dell'Unità, che rischia la chiusura. Ecco, al pari di questo stona un po', si è messo a fianco la lettura dell'articolo del Corriere Economia di Sergio Rizzo, quella spesa infinita per i giornali di partito. Racconta Rizzo, dal 93 al 2012, dunque in 20 anni o poco meno, lo Stato italiano ha speso 330 milioni per sovvenzionare 25 giornali legati ad altrettanti movimenti politici. Altri 90 milioni di contributi, lo scrive in un rapporto sui costi della politica del commissario della Spending Review Cottarelli, curato da Bordignon, a cui ha fatto parte anche Riccardo Puglisi, che abbiamo avuto la settimana scorsa. Altri 90 milioni versate a sole 6 radio, 37 milioni a Radio Radicale, 26 a Ecoradio, 17 a Città Futura, 5,2 a Veneto 1, 3,6 a Galileo e 1,3 a Onda Verde. E racconta Sergio Rizzo, segnalando per esempio che il contributo dei giornali veniva erogato sulla base delle tirature e non delle copie effettivamente vendute, e per cui le rese dei quotidiani di partito si aggiravano in media attorno al 90%, cioè non vendevano niente praticamente, ma i contributi venivano dati in base alla tiratura. 90% di copie al macero, e chi se ne frega, la tiratura è quello che conta. Per esempio, racconta stesso Rizzo, la resa invece di quotidiani come Corriere della Sera e Repubblica è del 22%, non del 90%. E comunque quella spesa infinita per i giornali di partito, prima pagina del Corriere dell'Economia. A proposito di giornali, o meglio testate giornalistiche, c'è una revisione in Rai, in vista. Claudio Marincola ne scrive oggi sul Messaggero a pagina 6. Rai, TG3, Rai News e TG locali, si prepara l'accorpamento. Il piano verrà presentato mercoledì al Consiglio di Amministrazione, un piano al cui stanno studiando, a cui si sono applicati e che stanno studiando da tempo Nino Rizzo Nervo, presidente del Centro Studi di Giornalismo Televisivo di Perugia, è stato anche nel CDA della RAI, Valerio Fiorespino, direttore delle risorse umane, e Carlo Nardendolo, direttore dello sviluppo strategico. Ecco la RAI ai tempi di Renzi, scrive il Messaggero. Dimezzate le testate giornalistiche, meno direttori, meno vice, meno capi, insomma, e più soldati semplici sul fronte delle notizie e degli approfondimenti. Via l'edizione dei TG di mezzasera, via tutte le sovrapposizioni. Per intenderci, il concentramento di telecamere e microfoni su un unico evento verrà considerato errore grave, uno spreco di soldi e di professionalità. Basta e avanza per tenere sul chi vive le redazioni. Il piano però verrà presentato mercoledì. Verranno chiuse anche i doppioni delle sedi periferiche, ridotto anche il numero delle troupe. Tutte le redazioni sono già in subbuglio, scrive il Messaggero. Riguardo invece, andando negli Stati Uniti, c'è una sentenza che fa molto, molto discutere, perché intanto fa discutere sulla cifra. Vi leggo tre titoli per dire come i giornali italiani sono molto d'accordo. Tabacco, sentenza record dal gigante delle sigarette, 19 miliardi di euro a una vedova. Il marito della donna morta a causa del troppo fumo per un tumore al polmone è stata condannata alla BJ Reynolds, secondo il principio per cui non aveva informato abbastanza dei rischi del fumo. È la produttrice, tra l'altro, delle Camel e del Lucky Strike, è stata condannata a pagare in primo grado, loro faranno appello, 19 miliardi, ma non milioni, anche la stessa vedova in aula dice avevo capito milioni, in realtà 23,6 miliardi di dollari, avevo capito milioni ed ero già stupita. Poi l'avvocato mi ha detto no, miliardi, cioè sono l'equivalente di 19 miliardi di euro, ma sono 38 mila miliardi di vecchie lire, ma è una roba incredibile, quasi spropositata. Comunque 19 miliardi a una vedova, questo per Repubblica. Sentite il Messaggero. Stati Uniti 17 miliardi per la vedova del fumatore. La Stampa, multa da 23 miliardi, perché qui è in dollari, una vedova abbatte il gigante del tabacco. Insomma, intanto mettiamoci d'accordo di quanti soldi gli sono arrivati. Diciamo così, 23,6 miliardi di dollari. Questa è la cifra che raccontano i giornali americani, poi mettetevi d'accordo sul cambio in euro. Ma sui giornali è 23 miliardi, 17, 19, non si capisce niente. Sta di fatto che sono dei bei soldini, no? Che ne dite? Cosa fareste con... andiamo al ribasso, con 17 miliardi di euro di risarcimento, cosa potreste fare? Pensateci. E allora, alle 7:31 minuti, come dire, iniziamo a dare uno sguardo all'attualità internazionale che prevede due grandi tragedie sullo sfondo. La prima di cui si occupano i giornali è quella in Medio Oriente, dove c'è stata una battaglia terribile, 87 palestinesi uccisi, 13 militari israeliani uccisi. Questo è il nudo, freddo bilancio dei numeri. Racconta per esempio a pagina 2 il Corriere della Sera, nel reportage di Davide Frattini: siamo gli infermieri, adesso potete uscire, adesso sono 3 ore senza i cannoni dei carri armati che sparano proiettili tra le case, senza i missili dell'aviazione, il rumore costante dei droni come tagliaerba che affettano il cielo. Adesso arriva dopo la notte più sanguinosa da quando le truppe israeliane sono entrate nella striscia di Gaza. I morti palestinesi nei quartieri di Shajaia sono più di 60, tra loro vecchi, bambini. Chi non è riuscito non è potuto fuggire, chi ha scelto di restare. Da 3 giorni l'esercito israeliano avvertiva di abbandonare i palazzi, la zona sarebbe diventata campo di guerra. I fondamentalisti di Hamas invocavano la resistenza, chiedevano ai civili di non abbandonare l'area, minacciavano: abbiamo consegnato una granata a ogni abitante da lanciare invece delle pietre. Negli scontri della notte tra sabato e domenica sono stati uccisi 13 soldati israeliani, le perdite più gravi in una sola battaglia da quella nel villaggio libanese di Bin Shibel durante il conflitto contro Hezbollah di 8 anni fa. Questa solo la cronaca, ma ovviamente ci sono anche le reazioni. Intanto, per quel che riguarda la cronaca, il secolo XIX dedica una pagina al fatto che tra le distruzioni sia stato distrutto anche un asilo costruito dagli italiani. Israele distrugge l'asilo costruito dagli italiani. In questa pagina 7 del secolo, Luigi Guelpa, era un asilo costruito dalla ONG milanese Vento di Guerra col sostegno economico del nostro Ministero degli Esteri, ospitava 125 bambini ed è stato distrutto. Si chiamava Asilo Terra dei Bambini, edificato nel 2012 a Umm al-Nasser nella striscia di Gaza. E per quel che riguarda i commenti, intanto il Corriere della Sera mette in ampio risalto il gaffe o il fuori onda, chiamatelo come volete, del segretario di Stato americano Kerry, che non sapendo, anche se il Corriere dice davvero non sapendo, è stata una gaffe poco inconsapevole e molto un messaggio velato. Comunque, non sapendo, secondo la versione ufficiale, che il microfono della Fox News fosse aperto, ha detto: altro che operazione precisa e chirurgica quella di Israele. E infatti Obama ha chiamato Netanyahu, ha detto ci vuole un cessate il fuoco subito. Repubblica mette a pagina 4 l'intervista che Wolf Blitzer, un anchorman della CNN, ha fatto al premier israeliano Netanyahu. E la prima domanda è: come pensa di uscire da Gaza quando avremo raggiunto una serenità sostenibile, risponde Netanyahu. Voglio dire, non desideravamo che la situazione si inasprisse in questo modo, ci è stato imposto da Hamas. Sì, ma quando e pensa di porre fine a questa occupazione? Nessuno desidera spingersi troppo in là con le strategie, ma ciò che sta accadendo è eccessivo. Non stanno solo prendendo di mira le nostre città, stanno deliberatamente lanciando migliaia di missili. Negli ultimi giorni ne ha lanciati 2000 sulle nostre città. Si vedono però, chiede Wolf Blitzer, foto tristissime che ritraggono bambini e rifugiati palestinesi che fuggono dalle loro case. Sono immagini orrende, strazianti. Cosa prova nel vederle? Proviamo tristezza per ogni civile che viene ucciso, risponde Netanyahu. Non è nelle nostre intenzioni ed è questa la differenza tra noi e loro. Hamas prende deliberatamente di mira i civili e deliberatamente si nasconde tra la popolazione civile. Nascondono tra i civili i loro soldati, i missili e le armi. Che scelta ci resta? Dobbiamo proteggerci. Dall'altra parte invece l'Unità con Umberto De Giovannangeli intervista Nabila Burdeina, che è il portavoce del presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen. Bombardare a tappeto quartieri densamente abitati non è esercitare il diritto di difesa, né può essere giustificato in nome della lotta al terrorismo. Massacri come quello perpetrato a Sajaia hanno solo una definizione: crimini di guerra. Così il portavoce del presidente dell'autorità palestinese a pagina 2 dell'Unità. La situazione è drammatica, siamo nel pieno di una tragedia immane, i morti si contano a centinaia, i feriti a migliaia, gli sfollati 100.000. Il mondo non può assistere passivamente a quello che il presidente Abbas ha giustamente definito un genocidio in atto a Gaza. Come vedete, la lettura è molto semplice, da una parte e dall'altra ognuno ha la propria versione. Lettura ben più complicata di quello che sta succedendo al confine tra Ucraina e Russia, dove a mio modo di vedere incredibilmente i giornali italiani, dopo la soluzione a Berlusconi, hanno messo questa vicenda in secondo piano. Per carità, importante la soluzione di Berlusconi, i risvolti politici, ma veramente da scelta, da un guardarsi nell'ombelico il giorno in cui hanno abbattuto un aereo con 290 persone a bordo, molti dei quali europei, olandesi, poteva essere un volo anche con molti italiani. Ebbene, lì è il disastro, come racconta Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera. Corpi ammassati nei vagoni frigo, mancano i resti di 100 passeggeri. C'è anche questo mistero. I movimenti delle batterie antiaeree tra Russia e Ucraina. C'è anche un'intervista da Alexander Borodai, che è il primo ministro dei secessionisti filorussi ucraini, che dice: abbiamo noi le scatole nere. Riguardo invece ai cadaveri, nessun mistero, abbiamo dovuto spostarli, stavano cominciando a decomporsi, li abbiamo messi in una cella frigorifera perché fa caldo e ci sono animali selvaggi nella zona, specie cani randagi. Sta di fatto che questa è una situazione incredibile, per cui ci sono anche i corpi in ostaggio tra i ribelli e Kiev, come racconta la stampa a pagina 4 con l'inviata Lucia Sgueglia, e come racconta anche il Messaggero con il jet abbattuto, via libera agli ispettori dell'ONU. Quello che ci interesserà capire però dalle 9.05 avremo ospite Sergio Romano, storico ex ambasciatore, avremo ospite Savik Schuster, giornalista che parla un perfetto italiano e che in Ucraina conduce il talk televisivo Schuster Live, per capire ora che cosa potrà succedere, perché l'America ha incolpato nettamente i filorussi. Kerry, segretario di Stato americano, che dice: abbiamo le tracce, anche le prove che siano stati i filorussi. E che cosa può significare questo dal punto di vista delle ripercussioni lo vedremo forse nei prossimi giorni. C'è da dire che, per concludere la pagina degli esteri, Il Corriere della Sera invece dedica un'altra pagina a quella che è un'altra situazione molto molto delicata. Nord dell'Iraq, Mosul, che è stata proclamata capitale del neocalifato dell'ISIS, i radicali jihadisti che stanno prendendo sempre più potere in Iraq, racconta il Corriere con Alessandra Muglia a pagina 5. Picchiata e spogliata di tutto, così sono fuggita i fanatici. È un racconto di uno dei tanti cristiani scappati da Mosul dopo l'editto dell'ISIS. I cristiani prima sono stati additati, le loro case segnate con la lettera N, Nasrat, cioè cristiano in lingua araba, e molti di loro sono fuggiti, alcuni ce l'hanno fatta. Questa signora di 68 anni racconta: mi hanno intercettata mentre fuggivo, mi hanno spogliata di tutto, ad alcuni cristiani, solo in quanto cristiani. Sono state tolte le scarpe, a dire ora camminate a piedi nudi o fatevele dare dai vostri sacerdoti le scarpe nuove, e sono stati perseguitati così. E questo lo racconta il Corriere della Sera a pagina 5. Dobbiamo venire alla questione delle riforme. Le riforme, incredibilmente Renzi ha detto che si apre la settimana decisiva, lo ha detto dall'Angola, dove è in visita dopo il Mozambico per concludere anche affari importanti, soprattutto racconta il Corriere, affari energetici. L'Eni investirà molto e si racconta che potremmo usufruire quindi di giacimenti energetici per il nostro futuro, anche per ridurre la dipendenza magari proprio anche dalla Russia. Sta di fatto che è la settimana decisiva, così ha detto Renzi, giuro, l'abbiamo fatto sentire prima, Mauro Meazza, giuro, ha detto così. No, Alessandro, ma a che numero di settimana decisiva sei 64esima arrivato? Di questa legislatura. Ma è la settimana decisiva, perché poi mi pare che tu andrai in ferie, quindi sì, sei contento. E quindi . O è questa quella decisiva, oppure bisogna. Cosa facciamo? Ti teniamo il conto intanto che sei Guarda, via? No, lo terrò io su Twitter, tanto tornerò e sarà tutto come prima. Cioè ci sarà un'altra settimana decisiva più avanti. Ecco, no, esatto. Volevo capire se c'era la pausa estiva, come si fa ad esempio nelle questioni di giustizia, no? C'è un momento in cui si interrompono. Beh no, le settimane passano, come dire. E restano decisive. E dall'inizio della legislatura non è che si ferma il tempo. Va bene, no, scusami una precisazione, perché ero qui che contemplavo la tua foto sul Sole 24 Ore di oggi. Ah. Sempre mettiamo la tua foto, c'è questa simpatia per degli impaginatori nei tuoi confronti, o forse delle impaginatrici, non so sì, com'è. Certo. Quale potrà essere veramente il motivo che sta dietro a questa cosa. So che già hai parlato delle multe, quindi non e come è, no. Non so se vuoi andare a vivere a Caserta, evidentemente a guidare, più che vivere a guidarci. Sai che mi hanno scritto tantissimi messaggi a dire guarda che a Caserta è una città disciplinata, ma non c'è dubbio, ma voglio dire, ma no, non lo voglio mettere in dubbio, ma 60 centesimi a fronte di 170 euro, qualcosa non torna, ecco. E probabilmente a Milano o a Firenze o a Bologna, a Parma c'è una, come dire, una pressione maggiore sull'automobilista, ma vabbè, insomma, rimandiamo poi per tutta la lettura della classifica, l'approfondimento della classifica, alla lettura del Sole 24 Ore. Tra l'altro non ti sarà sfuggito che questa vicenda delle multe in realtà si collega anche a un calo di incassi per gli enti locali, perché nonostante la stretta, insomma, anche per le multe ma anche per altre voci, si stanno incassando meno. A questo proposito, Mauro, fammi fare una cosa cross mediale. Oggi lo cito solo così, e poi se volete leggerlo su Repubblica, c'è scritto che 180 comuni sono a rischio default. C'è una pagina di Federico Fubini, insomma, anche per i minori incassi. Allora, io pur non avendo capito che cosa vuol dire cross mediale, mi immagino che sia un termine calcistico di, non so, di quelli, è una cosa tedesca. Sì, effettivamente mi sono lasciato prendere la testa, cross mediale, però ti rimando all'editoriale che non so se è cross mediale di Gianni Trovati, che appunto significativamente intitolato il rosso è locale ma l'emergenza è nazionale, perché se mancano i soldi ai sindaci poi qualcuno glieli deve poi dare. Allora, i tuoi 2 euro investili per i tuoi figli, guarda, dammi retta, Risparmio e Famiglia di oggi ti spiega come investire poco a poco, quindi abbiamo pensato a te nel mettere questo servizio in pagina, investire poco a poco per i figli, scegliere tra i libretti, le porte, polizze, le varie opportunità che ci sono. Questo sul Sole 24 Ore di oggi. E poi avrei visto che il lavoro non va benissimo, non è andato benissimo negli ultimi 2 anni. No, avevi già questo sospetto, secondo me, sì, non solo tu. Qualche segnale... No, però abbiamo fatto, Valentina Meis ha guardato proprio punto a punto, cioè il tempo indeterminato, il contratto a termine, il contratto a progetto, e insomma ci sono delle grafiche eloquenti che mostrano tutte delle tendenze verso il basso, non è gradevole, no. Specialmente per i contratti di collaborazione. Questo è, credo, il problema del momento. Oh, e poi se vuoi pagare a rate, mi raccomando che c'è la nostra prima pagina di norme e tributi, ti spiega che Equitalia fa ripartire la rateazione, ma ci sono dei vincoli un po' più stringenti di quanto ce ne fossero prima, quindi chi ha pendenze con Equitalia, consigliamo la lettura. E a questo punto torniamo sulle multe. State attenti, cari ascoltatori, guidate piano e guidate soprattutto a Caserta. Oppure guidate verso Caserta. Non vorrei adesso dare la colpa a Caserta, no. Però effettivamente se passate da Milano o da Bologna o da Firenze, il rischio è più elevato. Un grande abbraccio a tutti gli amici di Caserta, ovviamente. E allora, le riforme, Renzi, basta ostruzionismo, come definisce chi si oppone a questa riforma? Un sasso sui binari dell'Italia. Questo è il titolo di Repubblica, pagina 8. C'è un accordo che è più ampio della maggioranza, sono tranquillo, così Matteo Renzi, anche se in un retroscena Goffredo De Marchis appena sotto si racconta che le manovre dei franchi tiratori portano al rischio di rinvio della riforma, ma se salta tutto si va al voto. Questo sarebbe l'ultimatum minacciato da Palazzo Chigi, il voto se tutto viene bloccato. Anche per la stampa Renzi pressing contro l'ostruzionismo, mentre dall'altra parte c'è un Berlusconi che è molto galvanizzato dopo la soluzione. La mossa politica che ha fatto prima, come raccontano la stampa, come racconta il giornale, è quella di aver telefonato ad Alfano. Ora via all'operazione disgelo, come titola il giornale a pagina 3, telefonata Berlusconi Alfano. L'ex premier con Angelino dice parlo da solo. Pare che ci sia anche un colloquio domani tra Berlusconi e Fitto, che è il dissidente più tenace sulla questione della riforma del Senato e che quindi Berlusconi cercherà di convincere, ma soprattutto Berlusconi punta a una cosa, come raccontano soprattutto la stampa e Repubblica. Repubblica addirittura la mette la notizia in prima pagina: Berlusconi, ora voglio ricandidarmi. Tra qualche mese, a febbraio, scadrà la questione dei servizi sociali. Qualcuno dovrà trovare una soluzione per ridarmi l'agibilità politica a cui ho diritto, ha ripetuto ai suoi dopo la soluzione. Repubblica racconta che non punta più alla grazia, un capitolo che sembra chiuso anche per lui, ma è un Berlusconi che punta ad essere rilegittimato politicamente, una legge per ricandidarmi. Il tentativo, secondo Berlusconi, è quello di trattare con Renzi, battendo la strada e occupandomene personalmente con lui, di modificare la norma sull'incandidabilità della legge Severino o escogitare un modo per sterilizzarla nella parte in cui impedisce a un condannato in via definitiva di essere candidato in Parlamento e a Palazzo Chigi. E tra l'altro Berlusconi, che da febbraio avrà ancora il passaporto, dice frequenterò i vertici del Partito Popolare Europeo e Angela Merkel dovrà fare i conti con me. Come racconta Ugo Magri, riabilitazione internazionale, sulla stampa siamo a pagina 7, questo il nuovo obiettivo di Berlusconi. Su questo si muovono le riforme. C'è invece Maretta nel Movimento 5 Stelle, soprattutto dopo un'intervista che Tommaso Currò, onorevole del Movimento, rilascia a Repubblica. Ce l'ha con la leadership di Di Maio, vicepresidente della Camera, leader senza merito. Tanto che Tommaso Currò, intervistato da Tommaso Ciriaco su Repubblica, dice ora è il momento di dire ciò che penso. A questo punto organizziamo un congresso. Ma il che, Repubblica dice un congresso, onorevole Currò, così diventate un partito come gli altri. Faccio una semplice riflessione. Visto che c'è una leadership conclamata con un segretario in pectore, cioè Di Maio, si prenda atto che le cose sono cambiate e si faccia un percorso diverso. Siamo diventati di fatto un partito e con la differenza che manca un percorso di legittimazione, manca la democrazia interna. Così Tommaso Currò lancia questo dibattito sulla questione del Movimento 5 Stelle. Mentre invece, se lasciamo, abbandoniamo la politica per arrivare al tema del lavoro, come prima diceva Mauro Meazza, c'è questo articolo di Giusy Franzese sul Messaggero che è davvero inquietante. CIG in deroga, 150.000 restano a secco. Tutto bloccato da mesi, 150.000 lavoratori completamente a secco che attendono l'erogazione dell'assegno di cassa integrazione in deroga. Nel frattempo non sanno più a che santo votarsi per andare avanti. È questa la bomba sociale pronta a esplodere legata alla vicenda del rifinanziamento della CIG in deroga. 400 milioni sbloccati pochi giorni fa servono a coprire la coda del 2013 e avviare le prime quote 2014, ma dicono i sindacati a marzo finirà l'erogazione dei sussidi. E gli altri mesi? Il ministro del welfare Poletti ha promesso che nei prossimi giorni individueranno altri ulteriori 400 milioni. In questo modo si ricostituirà la copertura prevista dalla legge di stabilità di 1,4 miliardi. Altrimenti davvero per i cassi integrati mancano i fondi. Due minuti solo per segnalare la storia di questa professoressa che a Repubblica rilascia un'intervista. Io, umiliata dalle suore, cacciata dalla suora superiore in una scuola paritaria perché mi ha chiesto se fossi lesbica. Io non lo dirò a nessuno, ma trovo, racconta a pagina 21 di Repubblica, mi ha incontrato in aula docenti, non c'erano testimoni, aveva sentito voci secondo la quale avrei una compagna e mi ha detto questa suora, siccome devo tutelare l'istituto cattolico e c'è da rinnovare il suo contratto, mi ha chiesto di smentire o confermare quelle voci. Io ero disgustata. E poi il rinnovo del contratto non è arrivato, il ministro dell'istruzione Giannini ha detto indagheremo. E se c'è una discriminazione sessuale agiremo con severità. È una vicenda raccontata già da ieri da Repubblica. Va bene, siamo al momento conclusivo, dai, al momento della carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Evviva! Oggi vince con un'intera pagina La Stampa, è già la terza volta consecutiva, perché mette in primo piano con Paolo Mastrolilli la foto segnaletica di Jeremy Mix, piccolo delinquente californiano che è stato beccato per un piccolo reato, ha fatto la foto. Oh, questo Jeremy, devo dire, è proprio un belloccio, occhi azzurri, mascella squadrata, e dopo la foto segnaletica dice ora voglio fare il modello. Ma chi se ne frega? Comincia a discolparti del crimine e la Stampa dedica una pagina quando una foto segnaletica cambia la vita al criminale. Preso, ora un agente e vuol fare il modello perché è un belloccio. Ma La Stampa.